tutto quello che ho detto finora. Ecco, appunto, siamo appunto collegati ancora dalla piazza. Dici. Allora, io sono sempre qui al Colosseo. Sì. E niente, praticamente sono in questo momento arrivati in tutto lo spettro dei Gobas. Mm-hmm. Che un po' da. Il Colosseo c'ha una transenna qua dall'alto. Sì, sì, sì. I Gobas hanno. Così ho lanciato degli slogan di andare via a tutto un blocco di persone che erano col casco e vestite col casco, insomma, coperti. Quindi diciamo delle frange che sono venute dai lati del corteo, che si sono state allontanate dai Cobas, questo? Non è che sono stati allontanati, non c'è una questione di allontanamento, ci sono degli slogan, se volete sentite chi, no? Uh-huh. Cioè, mentre sfilano c'è questa, diciamo così, si fischia a uno spezzone. Ho capito, così, ho capito. Vedo delle barfacce perplesse. Avete una versione diversa dalla mia? No. Però cioè, c'è sicuramente una parte che porta una contestazione verso diciamo i cattivelli, no? Insomma, comunque una macchina bruciata. No, ma infatti va bene, non è quello, però. Va bene, comunque questo è quello che succede qua, quindi insomma diciamo che inizialmente avevo parlato di questa unità, io comunque avevo percepito finora, non mi era minimamente, non avevo avuto questa sensazione di divisione, no, eccetera, infatti qua un po' me lo confermano. Adesso invece, siccome il corteo è abbastanza fermato a Piede Fuori Imperiali, sì, e si sta fermi qua, e se ci vedi la gente sta urlando, soprattutto devo dire che è il camion dei Cobas, questo è il camion dei Cobas che sta urlando in questo momento, via via via, dove fai? Noi se ne andiamo noi, noi stiamo allontanati giustamente un pochetto. Però diciamo che finora non era successo niente di tutto questo, e lo spezzone diciamo così più coperto eccetera, comunque il corteo continua ad andare, il furgone della precarietà continua ad andare, e dopo i Cobas a questo punto ti posso dire insomma i Cobas sono abbastanza, ci stanno qualche bandiera dell'USB e c'è un bello spezzone, stanno adesso che il Cobas Sanità c'è, cioè principalmente sul camion c'è un'azione a solidarietà con i lavoratori egiziani, c'è chi urla i Cobas pagliacci, insomma. Va bene, sì, ok, ti ringraziamo per la corrispondenza. Ciao. Ci sentiamo dopo, dai, ciao, sì, ciao. In continente c'è veramente tanta gente, da tutto va detto questo. E a questo momento io sono praticamente all'angolo tra il Colosseo e dove il Colosseo la strada gira per andare esattamente verso Circo Massimo, nel senso quella curva lì, diciamo, sotto con le oppio. E poche centinaia di metri, il corteo qui ora è composto in maniera molto variegata perché ci sono le ottave che sono davanti, poi c'è tutta un'area di la parte di San Precario eccetera, poi c'è tutta una parte più pink, lotta per la casa, veto, altre bandiere di questo, diciamo, di questo tipo, poi c'è una parte un po' mista e poi c'è una parte anche abbastanza consistente, non numericamente diciamo enorme, ma insomma 500 persone forse, con i, sì, caschi incordonati eccetera, e subito dietro c'è il camion di Cobas e via discorrendo. Devo dire che il corteo un po' dietro si è un po' sfilettato, io non so sinceramente da e qui, quindi, e quindi per entrare nel resto so che molti sono ancora a Piazza di Seta, per intendere, sì, si sta scorrendo, diciamo, sì, per entrare nel mezzo, quindi non so se qualcuno ha girato qui dalla parte, per intenderci, che taglia da via Cavour verso il Colosseo, non vedo scendere, c'è tanta gente, quindi scende anche tanta gente da lì, però non vedo spezzoni, cioè non vedo striscioni, camion eccetera, quindi immagino che sia ancora dietro il corteo. Allora, per quanto ci risulta il corteo sta proseguendo, abbiamo parlato poco fa da Santa Maria Maggiore e continua a scendere gli spezzoni, adesso nei singoli frammenti magari diciamo che poi questo è più o meno quello che vedo io, quindi questo vi sto raccontando quello che vedo io, quindi il resto non lo so perché non lo vedo, però diciamo che per un certo periodo il corteo si è anche fermato perché l'incendio di queste macchine ai lati del corteo evidentemente ha bloccato chi vi scendeva da giù perché hanno dovuto aspettare che arrivassero i pompieri eccetera, e c'è stata una sorta, diciamo così, di forte presa di parola soprattutto dal camion dei Cobas che appunto chiedeva a questo spezzone davanti a loro di togliere, di farli passare, che volevano continuare il corteo e che sostanzialmente il corteo andava rispettato, non si potevano assumere comportamenti di un certo tipo senza rispetto dei, diciamo, della piazza e quant'altro. Quindi c'è stato un momento, diciamo, non direi di tensione perché non si è arrivati alle mani, se è questo che vogliamo intendere, però insomma sono stati parecchi battibecchi con urla, fischi da una parte, dall'altra parte slogan del tipo stato a memoria, il nostro amore per la libertà, non c'è nessuna autorità, qualcosa del genere. E quindi niente, no, questa come nota che è successa in piazza, e quindi diciamo che forse va annoverato anche questo. Io poi non so questo cosa comporterà successivamente nelle relazioni all'interno del movimento, ma a noi adesso interessava con molta tranquillità e con molta chiarezza semplicemente segnalare una cosa che è successa, un dato di cronaca. Dentro questa composizione, diciamo, non ci interessa neanche poi entrare troppo nel merito. C'è stata questa dialettica, noi ve l'abbiamo raccontata per quello che vale. Se non diciamo, se non immaginiamo degenerazioni o problemi significativi, per noi è un, come dire, l'abbiamo documentato e tiriamo avanti. È la dialettica della piazza, che però va annoverata, perché almeno diciamo che personalmente non avevo mai assistito a questa sorta di battibecco traspezione di cortei così, insomma. Va benissimo, allora per questo ti ringraziamo. Il corteo continua e va dritto verso San Giovanni, anche la parte, diciamo, insomma, tutto si continua, non c'è nessuno che gira a destra o a sinistra, insomma, quindi questo è quanto. Va benissimo. In maniera molto molto fredda e poco soggettiva, perché appunto queste sono poi evidentemente riflessioni, però è successo, quindi andava forse raccontato anche questo. Va bene, allora grazie ancora.